sai chi ti guarda come me. Allora rettore ma non di certo me, e non ci pensi più a noi, volevo di più. Quando c'eri tu valevo di più, e quando troverai chi ti guarda come me, allora rettore ma non di certo me. Eccoti qui davanti agli occhi, le mani nelle mani, brividi quando mi tocchi, e ancora mi spaventa, non ci sarai domani. Come sempre toccate e fuga, dai, dai questa volta rimani. Non servono parole, ti descrivo con lo sguardo di chi ti vorrebbe sempre al suo fianco, anche se sei la causa di notti in sogni e sogni, perché sei bella, sì più bella d'ogni donna che ho incontrato in questa vita del cazzo, in una vita da innamorato pazzo. Me ne avevano parlato nella forma migliore, tralasciando piccoli dettagli, problemi di cuore. Ma l'amore muove il mondo ed io non resto fermo, rimango uno scrittore di emozioni in quest'inverno. Perché l'amore non esiste, me lo ripeto ancora, poi ritorni tu e quel brivido riaffiora. E non ci pensi più a noi, volevo di più, quando c'eri tu valevo di più. E quando troverai chi ti guarda come me, allora rettore ma non di certo me. E non ci pensi più a noi, volevo di più, quando c'eri tu valevo di più. E quando troverai chi ti guarda come me, allora rettore ma non di certo me. Cambiare, si continua a sbagliare e otto non ti fa volare e rimani impigliato con le tue ali, piuttosto che spiccare il volo verso gli ideali, radicando la paura nella propria terra. Rimaniamo schiavi nella nostra guerra, rinunciando a ciò che c'è di straordinario. È facile vivere in modo ordinario, ma il cambiamento porta giovamento. Non ci credeva, ad oggi vive il mio momento. Ho spiegato le ali verso orizzonti lontani, ho piegato il volere degli esseri umani, fuori dagli schemi una nuova concezione, con la mente libera per una percezione della realtà che va oltre ogni immaginazione. Oggi sto vivendo ogni mia emozione. E non ci pensi più a noi, volevo di più, quando c'eri tu valevo di più. E quando troverai chi ti guarda come me, allora rettore ma non di certo me. Io ci pensavo e questo lo sai anche tu, quante volte quel maledetto déjà vu. T'ho sempre guardato come guardavi me, sarò la tua regina se tu sarai il mio re.